La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, buon sabato a tutti, buon cinema a tutti da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, mezz'ora di cinema qua su Radio 24 per raccontarvi tutto il nuovo che c'è nelle sale cinematografiche italiane. Ed è una settimana a 5 stelle questa, intanto perché c'è il nuovo film di Scorsese, The Wolf of Wall Street, che già da solo vale le 5 stelle, poi perché non è l'unico film molto interessante di questo ricco weekend che si traduce in una ricca puntata, tante interviste, tante voci da farvi sentire. Noi cominciamo subito a parlare del ritorno di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, tratto dal libro omonimo Il Lupo di Wall Street, edito da Rizzoli. Ancora una volta lo sfondo della borsa americana, stavolta davvero solo uno sfondo, perché in realtà sono le gesta poco eroiche, diciamo, di un personaggio totalmente controverso ma enormemente affascinante, interpretato da uno straordinario Leonardo DiCaprio. Se non gli danno l'Oscar stavolta, e non so più sto ragazzo cosa deve fare per portare a casa sta statuetta, ma soprattutto diretto da un Martin Scorsese che sembra tornato indietro di 30 anni, anche come verve e come capacità di mettere in scena un film che dura quasi 3 ore, ma nel quale non guardi mai l'orologio, pieno di eccessi, pieno di un tripudio di eccessi assolutamente dall'inizio alla fine. Ho detto così scherzando che avrebbero dovuto vietarlo ai minori di 25 anni, perché ha uno sproloquio dietro l'altro e diciamo così le situazioni hot e il linguaggio si sprecano, ma tutto questo fa parte di questo personaggio, di questa storia, e ci sta dentro perfettamente. Allora ascoltiamo subito questo pezzo del trailer, poi ci colleghiamo con Boris Sollazzo. Mi chiamo Jordan Belfort. Alla tenera età di 22 anni mi sono diretto nell'unico posto adatto alle mie nobili ambizioni. Regola numero uno: prendere i soldi dalle tasche del tuo cliente e metterli nelle tue. Ma se ne fai entrare un po' anche nelle tasche del tuo cliente, è meglio per tutti, giusto? No. Ecco, questa è la filosofia. E questo dialogo avviene in un ristorante, a un piano piuttosto elevato, con un Matthew McConaughey che si vede qui e poco oltre nel film, ma che vale solo in questa scena la spesa del biglietto. E lo scoprirete perché quando andrete a vederlo. Io vi dico altre due cose sul cast. La presenza di Jonah Hill ormai è diventata in un film per me un elemento attrattivo, perché è un attore di una grande versatilità e anche qui sa stare perfettamente al gioco. E poi c'è la scoperta di Margot Robbie, Naomi LaPaglia, moglie di Jordan Belfort, che è di una bellezza stordente, chissà dove l'ha pescata, in Australia sappiamo, ma insomma, e davvero si dimostra anche molto spiritosa e molto adatta a questa parte. Boris Sollazzo è con noi, ciao Boris. Come avrai forse intuito, io sono entusiasta di questo film, tu? Beh, io anche di più, per me è un capolavoro, uno dei migliori film di Martin Scorsese. Ti dico subito che Leonardo DiCaprio non vincerà l'Oscar, perché lo vincerà Matthew McConaughey, perché ha dalla Buyer's Club aggiungerà quei 5 minuti che valgono da soli le 2 ore e mezza, se anche ci fossero solo quelli, ma le 2 ore e mezza sono qualcosa di straordinario. Scorsese praticamente mette insieme Casinò, quei bravi ragazzi, The Aviator, lo innaffia di coca, nani e ballerine bellissime, e si trova in una forma smagliante. Di solito invecchiando si perde la verve, Scorsese si reinventa costantemente, si mette alla prova, come è successo proprio a Matthew McConaughey e Friedkin, anche uno che invecchiando continua a diventare sempre più giovane. Ed è una cosa pazzesca, questo film è un film che ti lascia per 2 ore e mezza col fiato sospeso, sconvolto. Come dici tu, c'è un Jonah Hill incredibile, oscenamente splendido nella sua performance, bravissimo Leonardo DiCaprio, che ovviamente lo meriterebbe l'Oscar, la mia era una provocazione, ma davvero io uno Scorsese così forse non lo ricordavo, degli ultimi 15 anni è la cosa più bella che abbiamo visto di lui. Mi scusi? Sì? È sua quella? Sì. È la sì. Sua Jaguar? Sì, sì, sì. Lei quanto guadagna? Non lo so, $72,000 l'altro mese. Se mi fa vedere una busta paga di $72,000 mi licenzio e lavoro per lei. Straordinaria scena anche questa fra DiCaprio, Jonah Hill, e nel film The Wolf of Wall Street decisamente il consiglio della settimana, ma come dicevo non l'unico. Però noi dobbiamo già giocare, perché è arrivato il momento di cominciare a provare ad indovinare un nostro film misterioso. Sei stato su una vera barca per gamberi? No, ma sono stato su una per uomini. Ho lavorato sulle barche per gamberi tutta la vita. Stavo cercando di comprare una barca per me e mi è arrivata la chiamata. poco misterioso questa settimana, però insomma a volte dobbiamo essere anche buoni e cercare di aiutarvi e soprattutto regalare splendidi film. Sarà questo il caso per i primi due ascoltatori che risponderanno esattamente con il titolo e il loro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it per provare a indovinare di che film si tratta. Più tardi vi farò ascoltare un altro stacco. Allora, adesso parliamo di un film che arriva dalla Francia, che si intitola Tutto sua madre. È diretto e interpretato da uno straordinario, per me una scoperta qua in Italia, ma in Francia è molto famoso, Guillaume Gallienne, della Comédie Française, quindi un notevole attore, ma che si dimostra anche un ottimo regista. Mette in scena una storia totalmente autobiografica che ha un titolo straordinario in francese, Les garçons et Guillaume à table. Già qui c'è dentro tutta la noce di questo film, cioè ragazzi e Guillaume, come se non fosse un ragazzo, a tavola. E questa è l'esortazione della madre quando i piatti erano pronti. Questo ci dice già che si gioca molto sull'identità sessuale. È un film molto particolare perché racconta sostanzialmente un outing al contrario, cioè quello di un giovane uomo che si è creduto, perché forse anche un po' l'hanno fatto credere, omosessuale per tutta la sua adolescenza e per tutta la sua gioventù, ma a un certo punto fa outing e capisce, scopre di essere eterosessuale. E quindi c'è davvero dentro la sorpresa, ma anche la meraviglia di una recitazione bourgeois molto molto in punta di penna, che noi adesso andiamo a sentire in questa clip che vi facciamo ascoltare, poi ne parliamo con Boris. Mia madre è fortissima, per me non ha nessun difetto, oscilla sempre fra un grandissimo calore. Volete bere qualcosa? E un freddo glaciale. Però volete bere qualcosa? Un Perrier! E ditelo, mannaggia, 3 ore per partorire un Deca e una Perrier. Ma scherziamo, vai, porta un Deca e una Perrier. Io riesco a imitare benissimo mia madre. Un Deca e una Perrier, ma scherziamo. I suoi gesti, il suo modo di parlare, sono geniali. Allora Boris, questo era Tutto sua madre. L'adattamento del titolo italiano stavolta ci può anche stare, perché il rapporto con la madre, interpretata sempre da Guillaume Gallienne, è al centro di questo film. Una capacità di essere originali nel raccontare la storia e anche nella sua messa in scena. Guarda, Dio ci conservi la Comédie Française, che veramente sta producendo attori e anche registi straordinari. Devo dire che il film ha una sua bellezza e curiosamente si parla con un film italiano che sta uscendo anche in questi giorni, che è Tutta colpa di Freud, perché anche lì c'è un outing al contrario. La cosa straordinaria di questo film è che in un periodo in cui l'omosessualità sembra diventato un problema burocratico, politico, da risolvere con delle leggi, Gallienne fotografa benissimo ciò di cui c'è più bisogno, cioè dell'emotività, di raccontare le emozioni di una persona, perché appunto non si tratta di preferenze sessuali, si tratta di amore, si tratta di sentimenti. Gallienne si scarnifica, tra l'altro portando un testo teatrale che aveva recitato, testo teatrale che in parte riporta anche nel film. Il titolo originario francese tra l'altro ha ancora più senso quando si arriva al finale e si sente la frase che in qualche modo illumina la vita di questo ragazzo. Però è fantastico perché è una prova d'attore straordinaria, perché lui è quasi più bravo nella parte della madre che nella parte del figlio. È una prova di regia molto intelligente, perché non era facile abbattere quella quinta parete, poi ricostruirla e portare teatro a cinema insieme. Quindi veramente un gran film, veramente un film interessante che consiglio a tutti di andare a vedere. E potrete andarlo a vedere anche grazie alla Rosa Purpurea, a questo film, perché abbiamo a disposizione 5 copie di biglietti per i nostri primi 5 ascoltatori, che da questo momento sulla nostra pagina Facebook scriveranno la loro volontà di andare a vedere questo film. Scriveteci, ci dite voglio andare a vedere il film, poi verrete contattati ovviamente in privato per il vostro indirizzo di posta elettronica, perché lì vi verrà spedito il biglietto elettronico. Abbiamo a disposizione 5 coppie di biglietti per il film Tutto sua madre, da questo momento la Rosa Purpurea, Radio 24 su Facebook, e se non avete già cliccato mi piace dovete farlo da questo momento in poi. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea, seconda parte. Dicevamo, ancora film di cui parlare, un po' di evasione, un po' di leggerezza. Arriva da Las Vegas di John Turteltaub, film che in Italia è passato già perché è stato il film d'apertura del Torino Film Festival nello scorso mese di novembre. Tra l'altro, fatemi dire, Torino Film Festival è stato anche l'ultimo grande teatro che ha applaudito Carlo Mazzacurati, che ci è mancato proprio questa settimana e noi vogliamo unirci a quello che è stato il dolore del cinema italiano, perché Carlo è stato un grande regista del nostro cinema più recente, più contemporaneo. E ricordiamo anche Rizzo Ortolani, anche lui uno dei più grandi compositori di colonne sonore, è stata che è scomparso in settimana. È stata una settimana terribile questa sotto questo profilo. Ma dicevamo, Las Vegas, Festival di Torino, film d'apertura che va nella corrente della reunion dei grandi vecchi, che sta diventando un po' un genere, se vogliamo, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno almeno. E anche qua Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline, sono stato felicissimo di rivederlo al cinema, ma lo rivedremo ancora, tutti insieme per raccontare una sorta di notte da leoni, un addio al celibato in età piuttosto avanzata. State a sentire, siamo qui insieme, tutti e quattro. Siamo qui per festeggiare Billy che sposa una bambina. Non è una bambina. Chiudi il becco, Billy. Archie, la pressione. Ho cominciato a comportarvi civilmente o vi giuro scateno un inferno che neanche ve l'immaginate. Ci siamo capiti? Una festa molto controversa, qualcuno, Robert De Niro, non la vorrebbe, c'è qualcosa da regolare del passato, insomma gli ingredienti sono quelli classici. La regia non è che spicchi per voli pindarici, diciamo che l'elemento di forza del film è il cast. Un cast che magari non è che neanche esploda di novità, di interpretazioni, però insomma, Boris, vederli tutti insieme questi quattro fa un certo effetto. Ma sì, andreste a vedere una partita anche adesso che hanno 50 anni di Maradona, Van Basten, Zico e Careca? Sì, questa è la verità, anche se magari hanno la pancia, ma anche se magari fanno molta più fatica di prima a giocare, perché la classe non è acqua. Qui abbiamo una notte da leoni che a volte sembra anche un vacanze di Natale, siamo sinceri, insomma, ci sono due dei quattro assi che raccontiamo che a un certo punto bevono alcol da dei seni di ghiaccio, quindi questo per farvi capire fino a dove si arriva. La regia è di fatto assistenziale in tutti i sensi, non fa danni ma non è nemmeno sconvolgente, però loro sono così bravi che alla fine si ride, il film può essere prevedibile sopra le righe, può andare oltre in alcune gag, può essere nella rivalità tra De Niro e Douglas anche eccessivo, però loro sono comunque bravissimi, non perdono il polso. E se volete divertirvi, questo è il classico film da sabato sera, magari da andarlo a vedere questa volta con i nonni che possono avere questa piccola rivincita, perché se c'è una novità in questo film sta proprio nel fatto che non è bonario nei confronti della terza età, ma anzi la fa rivivere con una certa gioventù. E tra l'altro devo citare anche l'interpretazione di un'attrice poco conosciuta ma molto brava, Mary Steenburgen, che ritroviamo nei panni della donna che fa un po' girare la testa a questi quattro vecchietti, rimette in moto determinati ormoni. Tra l'altro Golden Globe 1982 per Ragtime di Milos Forman, e nell'81 Golden Globe per miglior attrice sempre non protagonista per Una volta ho incontrato un miliardario di Jonathan Demme, con la quale vinse anche l'Oscar per la migliore non protagonista nell'80. Insomma, attrice col pedigree che ritroviamo qua 30 anni dopo a far girare la testa a questo manipolo di vecchietti terribili. Questo è Last Vegas nei cinema italiani. Noi a questo punto vi facciamo ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ora, non so perché io nell'esercito ci stavo come un pesce dentro l'acqua. Non è così difficile. Devi solo rifare il letto lindo e pinto e stare in piedi diritto. E ogni domanda rispondere sempre. Sì, sergente istruttore. E allora, La Rosa Purpurea, @radio24.it, questo è il film, dovete dirci il titolo, mettere il vostro indirizzo, provare a vincere un'edizione davvero di lusso di questo capolavoro che vi sveleremo la prossima settimana, vi faremo sapere di che film si tratta, chi ha vinto, ma insomma partecipate con le vostre email. Io vi ricordo sempre invece che su Facebook potete provare a vincere 5 coppie di biglietti per andare a vedere Tutto sua madre. Allora, apriamo una parentesi diversa, una parentesi anche storica, perché proprio lunedì 27 gennaio si celebra in tutto il mondo la giornata della memoria per ricordare le vittime della Shoah, le vittime dell'Olocausto. È sempre tradizionalmente, ormai negli ultimi anni, anche una data attorno al quale la distribuzione cinematografica fa arrivare in sala film che siano in qualche modo tematici. Quest'anno è la volta di, tra gli altri, Anita B, di Roberto Faenza, che è già nelle sale, ma soprattutto direi di Hannah Arendt, di Margarete von Trotta, per due motivi. Uno, perché Margarete von Trotta è una grandissima regista che fa parte a tutto tondo della storia del cinema con la S maiuscola, e lo dimostra anche in questo film. Secondo, per il coraggio di Hannah Arendt, che è un coraggio da ricordare oggi, il suo essere controtendenza, il suo saper dal di dentro cercare di prendere le distanze dalle verità precostituite, l'elaborazione della teoria della banalità del male. E questo coraggio è il coraggio del film di Margarete von Trotta, Hannah Arendt. Allora, sentiamo questo trailer, che è in lingua originale perché è stato distribuito, il film viene distribuito, ve lo ricordo, solo il 27 e il 28 di gennaio, lunedì e martedì, ma in tantissime sale, quindi andatelo a vedere perché davvero merita. Sarà distribuito in lingua originale con i sottotitoli in italiano, e così è anche il trailer. Time to understand is not the same as forgiveness. It is this phenomenon that I have called the banality of evil. E allora questo è proprio il momento in cui viene citata la questione della teoria, della banalità, del male. Allora andiamo ad ascoltare l'intervista esclusiva per La Rosa Purpurea, rilasciata da Margarete von Trotta al nostro Boris Sollazzo. Margarete von Trotta, Hannah Arendt è un'altra delle sue grandi donne che racconta nel suo cinema. Cosa l'ha spinta a raccontare un momento così importante della sua vita? Ma prima perché è una donna filosofa, non ci sono tante donne chi si può dire questo. E poi cosa mi è piaciuto, che lei sa pensare indipendentemente, che veramente utilizza la sua mente a guardare il mondo e a trovare la soluzione, come descriverla, nel modo suo. Come ha lavorato con Barbara Sukhova? Io credo che abbia fatto una performance straordinaria. Straordinaria, ma sai che è il nostro sesto film insieme, dunque lei prima si prepara come io mi preparo per fare la regia. Lei si prepara, legge tutto, e trova le persone che io ho prima incontrato per capire ancora un po' di più. Lei fa veramente un lavoro di scientifica prima di poi di pensare come interpreta. Per esempio, anche come preparazione, lei parla un inglese come una tedesca del tempo, no? Che non ha un accento terribile. Lei vive da 20 anni a New York, parla un americano perfetto. Dunque, per prepararsi a questo accento quasi di nazi, no? Ha parlato 3 mesi prima di fare il film, già con questo accento. E la sua famiglia e i suoi amici sono diventati matti, perché è così brutto, no, di sentire questo linguaggio. L'ultima domanda è su una frase del film che mi ha profondamente commosso e colpito, quando lei dice: io non provo amore per un popolo, l'unico amore che so provare è per gli amici. Sì, sì. In quello, oltre ad Hannah Arendt, c'è anche un po' Margarete von Trotta? Sì, ma sono un po' più debole che Hannah Arendt, credo, di testa, ma cerco, sì. Io credo di no, grazie. Allora era Margarete von Trotta per Hannah Arendt, interpretato appunto da Barbara Sukhova, nei cinema italiani il 27 e il 28 di gennaio. Noi siamo già in collegamento con Giulio San Giorgio di Film TV, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Giulio, abbiamo voluto anticipare un po' il nostro spazio dedicato ai film da vedere in televisione la prossima settimana, perché anche qui vogliamo cercare di concentrarci sulle proposte che in qualche modo sono inerenti la giornata della memoria, e sono davvero tante fra il 26 e il 27 gennaio questa volta. Sì, in occasione della giornata della memoria, tra i tantissimi film dedicati alla Shoah ne abbiamo scelti 4. Il primo è il 26 gennaio, quindi il giorno prima della giornata della memoria, e alle 14:40 sulla 7 si intitola Arrivederci ragazzi, un classico di Louis Malle sul nazismo che separa l'innocenza e il candore di un'amicizia. Il giorno dopo invece, giornata della memoria, Stanley Kramer ricostruisce il processo di Nuremberg in un film profondamente kennediano che si intitola Vincitori e Vinti, e che va in onda su Giallo alle 21:05. Mentre in seconda serata, lo stesso giorno, sulla F alle 22:50, con Anime Erranti, Andrei Téchiné segue i passi di 3 adolescenti e di una madre in fuga nella Francia assediata dai tedeschi in Anime Erranti. Infine, con Adam Resurrected, che è un altro grande capolavoro di Paul Schrader, il regista mette in scena la mente, dunque la memoria propriamente, di un sopravvissuto all'Olocausto su Rai Movie alle 23. Ok, perfetto. Allora Giulio, questo è il carnet, insomma, piuttosto intenso per la giornata della memoria, i film che hanno qualcosa a che fare. A questo punto noi dobbiamo solo risolvere il gioco della scorsa settimana. Sono come soldi gettati, no? Immagino che la puoi vedere anche così, se vuoi, sì. E non sono nemmeno tuoi, hm? E allora, grande capolavoro del cinema del passato, Il postino suona sempre due volte, ma devo dire molto faticoso per i nostri ascoltatori. Dovete studiare un po' di più, ragazzi, perché qui questa settimana avete un po' deluso. Sono stati però più bravi di tutte due donne, Daniela Bertazzoni e Isabella Preziosi, una di Padova, l'altra di Perugia, che riceveranno una copia in Blu-ray di questo film che sta appunto uscendo, in questi giorni è uscito in Blu-ray. Giulio, parliamo di questa edizione in un video. Sì, la storia è quella torbida d'amore, passione e morte, tratta dal romanzo Hard Boil di James Cain, che era alla base anche di Ossessione di Visconti, e che in questo film dell'81, in un noir realistico diretto da uno dei maggiori registi americani degli anni 70, Bob Rafelson, e scritto poi dal genio drammaturgico di David Mamet, interpretato da Jack Nicholson e Jessica Lange. E sono proprio Rafelson, Mamet e Nicholson che commentano il film nell'extra migliore di questo Blu-ray. E allora questo è appunto Il postino suona sempre due volte, che è arrivato in Blu-ray. Grazie Giulio, sentirci la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora le note della nostra sigla a raccontarci che siamo arrivati in fondo a questa corsa di questa mezz'ora di cinema qui su Radio 24. Appuntamento fra 7 giorni, grazie a Isotta Scena in redazione, a Peter Bescapè in regia, un saluto da Franco D'Assisi.